siamo tutti qua, mi fa tanto piacere vedere tanti giovani, eppure tanti di tanti età, siamo tutti qua, di tutti i colori, uniti per una lotta bella. Abbiamo le donne femministe, abbiamo persone di Palestina, abbiamo noi di BLM, parlare tutti insieme per la giustizia, per la cittadinanza e per il diritto di vivere una vita normale, perché senza cittadinanza è molto difficile andare a scuola, molto difficile andare al dottore, non c'è aiuto del governo e si fa quasi impossibile vivere. Sì, questa è una cosa, questa forse è una cosa che non si capisce, no? Quanto rende difficile forse la vita quotidiana il fatto di non poter avere un diritto che dovrebbe corrispondere, no? Questo è importantissimo, dico, di far capire come diventa una rottura di pazienza questa maledetta cosa di non poter avere questo diritto. Esatto, esatto. Ogni giorno una lotta, si figura una strada, stai là, non puoi dire niente perché non ti lasciano avere, pure se sei nato e cresciuto in Italia tutta la vita. Non ti danno l'opzione, e cioè, in teoria ti mandano una posta ai 18 anni per spiegarti come fare la cittadinanza, però mandano forse tipo una 1000 a ogni anno, non è sufficiente, non è, ci siamo molte di più e ci lasciano senza educazione, quindi come facciamo a creare una vita? Manco con l'educazione. Come facciamo a prendere un lavoro, a guadagnare dei soldi? Poi per i bambini, i ragazzi che sono nati qua e cresciuti qua, che fanno senza cittadinanza di nessun paese? Perché noi non siamo di dove vengono i nostri genitori, siamo italiani, nati, cresciuti qua. In ogni senso, manca soltanto una carta, una cittadinanza, quindi è un po' ridicolo poi. Noi siamo più italiani che quelli americani che vengono qua col nonno, il nonno italiano. È veramente assurdo. Sì, è così assurdo che si fa difficile, no? Sembra spiegare, perché dico, se una cosa così semplice non si capisce, già sembra assurdo dover spiegarla. Come si fa nella quotidianità, giustamente, nell'attivismo, nella militanza di questa causa che si vive nella propria pelle, per far capire questa cosa, come dicevamo, e io ripetevo, tanto semplice. Sono persone nate e cresciute in Italia, quindi non si capisce come non c'hanno il diritto alla cittadinanza. Come si fa a dare, diciamo, questa battaglia, se vuoi, discorsiva, culturale, quando forse ancora ti trovi con persone che non ce la fanno a capire? Veramente non so come spiegare in dettaglio, perché è così complesso, si avete in ogni forma, di ogni giorno, è difficile verbalizzare. Però, se devo dire, ci trattano come dei... Dimmi. Come se dovevamo stare in carcere, praticamente, come se siamo delle persone brutte che non meritiamo essere qui. Sì. È indignante, certo. È veramente. Noi siamo qui, cioè vogliamo soltanto aggiungere la società italiana, e ci lavoriamo, facciamo tutte quelle che possiamo, però non ci danno questa cittadinanza, quindi non possiamo veramente vivere una vita completa. Certo. Si ferma. Certo, infatti chi non vuole capire, credo purtroppo su questo dobbiamo lavorare tantissimo in questa società, chi non vuole capire una cosa così semplice sta palesando direttamente un razzismo, e questo credo che dimostra il problema del razzismo che c'è ancora la società italiana del 2021, no? Che non è riuscita a superarlo e che si palesa in un'istituzionalità che non dà dei diritti, dopo si palesa nelle persone che non vogliono capire delle ragioni, quindi lì ci vuole lavorare tanto, no? Sul razzismo. Sì. E poi è difficile fare le persone capire che esiste il razzismo poi qui in Italia, perché se non lo vivi non saprai mai che esiste. Ci sono pure delle persone che dicono il razzismo non esiste in Italia, che è veramente una frase ignorante. Beato voi o alla persona che lo dice, che non ha mai dovuto soffrire sotto una forma di razzismo o una ingiustizia del genere al base del colore della tua pelle. Sì, è una roba sulla quale per questo ancora dobbiamo lavorare e insistere, martellare tantissimo, perché c'è una parte della società che non lo riconosce, che non si muove, non si sposta veramente un centimetro dei suoi privilegi di persone bianche in un paese come l'Italia, che c'è un problema grandissimo ancora di razzismo. E poi si posso chiarificare, non stiamo dicendo che le persone bianche sono brutte persone, per niente. Carità, boh, non stiamo dicendo che loro hanno la vita facile, stiamo dicendo che le loro vite non sono state mai fatte più difficili per un fatto che non possono cambiare, per una cosa così, così banale come il colore della pelle. Le nostre vite sono state fatte molto più difficili. Ad andare per le strade, io c'ho più paura, perché so se io sparisco quasi nessuno mi cercherà, però invece se una ragazza bianca sparisce uscirà su tutta la televisione, su Rai e tutto quanto. Certo, no, si tratta di riconoscere questo, mi pare parte dei privilegi che parte di una società ovviamente gode, e dall'altra parte pure capire che le problematiche sono le stesse per tutti, che giustamente ci vuole una unione. Tu parlavi all'inizio, quando descrivevi la piazza, la partecipazione di diverse realtà, quanto è importante giustamente che un evento come questo, che chiede una cosa specifica, permetta l'interloquire con diverse realtà, la comunità palestinese per esempio una, che ne so, e tante altre realtà. Come si vive questa cosa di poter così incontrarsi e forse perché no lavorare insieme? Per questo si deve capire la intersezionalità, si deve capire che il razzismo ci affetta ognuno di noi, di ogni realtà, di un modo distinto. La realtà palestinese stanno facendo praticamente apartheid in Palestina e poi con le donne, ingiustizia, poi con essere una donna di colore, una donna nera, ci affetti molto distinto come ci affetta il sessismo una donna bianca. Però siamo tutti qua uniti perché sappiamo che ci affetta tutti, ci affetta di modi distinti, però siamo tutti insieme a questa lotta. Se alziamo una voce ci alziamo tutti, dobbiamo cominciare insieme, non va bene separati. Prima, questa è una nuova generazione di movimento. Siamo giovani, per il gruppo palestinese c'è una ragazza giovane, tipo con 20 anni come me, che organizza tutto. Io sto qua a BLM Roma, organizziamo tutti noi, siamo uniti in più forme che sappiamo e ci vogliono separare. E invece siamo tutti uguali in un modo, e si deve capire che siamo pure distinti, però più uguali che distinti. Quindi siamo tutti insieme perché siamo più forti insieme pure. Certo, questo senza dubbio. Parlavi tu di certa paura che sentivi a volte di tornare a casa. Questa è una cosa giustamente trasversale che c'ha da avere con la situazione della donna. Ci potresti parlare giustamente com'è la tua esperienza di, diciamo, donna e figlia di immigrati che... No, sì, allora ti dico, io sono mia madre di Bolivia e Filippine e mio padre è brasiliano e francese. Io durante l'inverno sembro bianca, molto asiatica. Durante l'estate cambio di colore come sono mista e mi prendono più per indigena boliviana. Quindi quando è cominciato Covid io stavo sul tram e ho visto questo uomo salire con me, si è avvicinato, quindi mi sono spostata, ho seguito normalmente tipo 10 fermate fino a casa, ho sceso del tram e lui si è sceso pure. Poi stavo camminando, una camminata di 10 minuti dalla fermata per casa mia. Mi ha seguito per almeno 6-7 di quei minuti. Poi si è corso dietro di me e mi ha iniziato a chiedere, ma tu non sei cinese? Ho risposto no. Lui ha detto, ma sei sicura che non sei di Cina? Ma sei sicura? Tutte queste domande. Poi mi sono andata, ho chiamato un amico e ci ho provato a lasciarlo. Poi mi seguiva e quindi... Alla fine me l'ha lasciato, però dopo un bel quarto d'ora. Fa sì. Paura. E poi nelle discoteche, quando mi vedono, quei punti, coi dita alzati, urlano Cina, ci seguono. La mia amica bianca dice, ma un scherzetto, ma non è per noi. Perché lo fanno ogni volta, ogni giorno fa un pochino più male. Finché un punto è insultante, ogni volta. E non lo capiscono. Poi se a me mi chiamano esotica, hanno detto io ti voglio scopare perché così ho scopato uno da Brasile, Bolivia e pure le Filippine. Come se eravamo dei oggetti per collettare. Queste sono delle cose che ci mettono paura, ci seguono, ci maltrattano di forme distinte e orribili. Come oggetti, non sono manco una persona per loro. come mi parlano e guardano.